Capitolo 164. La morte di Achille. Pentesilea, regina delle Amazzoni, figlia di Otrera e di Ares, aveva cercato scampo in Troia, fuggendo alle erinni di sua sorella Ippolita, chiamata anche Glauce o Melanippa, che essa aveva ucciso per errore con una freccia durante una battuta di caccia, oppure, come sostengono gli ateniesi, nel corso della rissa che seguì alle nozze di Teseo e Fedra. Purificata da Priamo, essa si distinse in battaglia uccidendo molti greci, tra i quali vi fu, si dice, Macaone, benché, secondo la versione più accreditata, costui perisse per mano di Euripilo, figlio di Telefo. Più di una volta Pentesilea respinse Achille dalle mura di Troia. Alcuni addirittura sostengono che lo uccise e che Zeus, supplicato da Teti, gli ridiede la vita, ma infine Achille la trafisse con la lancia, si innamorò del suo corpo ormai esanime e senza por tempo in mezzo si macchiò di necrofilia. Quando in seguito egli chiese dei volontari perché seppellissero il cadavere della regina, Tersite, figlio di Agrio Letolo e il più brutto tra i greci raccolti attorno a Troia, dopo aver cavato gli occhi dalle orbite di Pentesilea con la punta della lancia, accusò Achille di sozza lussuria contro natura. Achille si volse e colpì Tersite con tanta forza da spaccargli tutti i denti e da far ruzzolare la sua ombra giù nel Tartaro. Ciò suscitò grande indignazione tra i greci e Diomede, che era cugino di Tersite e voleva dimostrare il suo disprezzo per Achille, trascinò via il corpo di Pentesilea e lo gettò nello scamandro. Il corpo tuttavia fu recuperato e onorato con solenni esequie sulla riva del fiume, da Achille, secondo taluni, dai troiani, secondo altri. Achille salpò poi alla volta di Lesbo, dove sacrificò ad Apollo, ad Artemide e a Latona, e fu purificato da Odisseo, un nemico giurato di Tersite. La figura di Pentesilea morente, sorretta da Achille, è scolpita sul trono di Zeus a Olimpia. La sua nutrice, l'amazzone Cleta, saputo che Pentesilea era fuggita a Troia dopo la morte di Ippolita, salpò per raggiungerla, ma venti contrari la spinsero sulle coste dell'Italia, dove fondò la città di Cleta. Priamo aveva frattanto indotto il suo fratellastro, Titono di Assiria, a mandare a Troia l'etiope Memnone e offrì come compenso un tralcio di vite d'oro. Ancora oggi si mostra in Etiopia un palazzo detto di Memnone, benché si sappia che quando Titono emigrò in Assiria e fondò Susa, Memnone, ancora fanciullo, lo seguì. Susa è ora comunemente nota come città di Memnone e i suoi abitanti vengono chiamati Cissi dal nome della madre di Memnone, Cissia. Il palazzo di Memnone rimase eretto sull'acropoli fino ai tempi dei persiani. Titono governava la provincia persiana in nome del re Assiro Teutamo, alleato di Priamo, che mise Memnone alla testa di 1000 etiopi e di 1000 susiani con 200 carri. I frigi ancora oggi mostrano l'aspro e diritto cammino disseminato qua e là di spiazzi per erigervi le tende, lungo il quale Memnone marciò verso Troia dopo aver vinto tutte le nazioni che gli si opponevano. Egli era nero come l'ebano, ma il più bell'uomo tra i viventi e, a somiglianza di Achille, indossava un'armatura forgiata da Efesto. Alcuni dicono che egli raggiunse Troia attraversando l'Armenia alla testa di un potente esercito di etiopi e di indiani, mentre per suo ordine un secondo esercito guidato da Falanto di Sidone salpava dalla Fenicia. Quando sbarcò a Rodi, i cui abitanti favoreggiavano la causa dei greci, Falanto fu così apostrofato: «Non ti vergogni, signore, di dare il tuo appoggio a pari del troiano e ad altri nemici dichiarati della tua città natale?» I marinai fenici, che soltanto allora seppero quale fosse la loro destinazione, lapidarono Falanto come traditore e si stabilirono a Ialiso e a Camiro, dopo aver spartito il tesoro e le vettovaglie che Falanto aveva portato con sé. Frattanto a Troia, Memnone uccise alcuni illustri guerrieri greci, tra i quali Antiloco, figlio di Nestore, che era accorso in aiuto del padre suo. Paride, infatti, aveva ferito uno dei cavalli di Nestore e l'auriga non riusciva più a controllare la pariglia imbizzarrita. Codesto Antiloco, poco dopo la sua nascita, era stato abbandonato sul monte Ida da sua madre Anassibia, o Euridice, e colà fu allattato da una cerbiatta. Poiché era troppo giovane per salpare dall'Aulide all'inizio della guerra, seguì l'esercito greco nella Troade alcuni anni dopo e pregò Achille di placare la collera di Nestore, irato per l'inatteso arrivo del figlio. Achille, compiaciuto per l'entusiasmo che Antiloco dimostrava, si assunse l'incarico di paciere e Nestore presentò infine il figlio ad Agamennone. Antiloco era uno dei guerrieri più giovani, belli, agili e animosi che combatterono nell'esercito greco dinanzi a Troia. Nestore era stato avvertito da un oracolo che bisognava proteggere Antiloco dagli etiopi e incaricò dunque Calione di stargli sempre accanto, ma invano. Le ossa di Antiloco giacciono accanto a quelle dei suoi amici Achille e Patroclo, ed egli si unì alle loro ombre nei campi degli Asfodeli. Quel giorno, con l'aiuto degli Etiopi e di Memnone, i troiani per poco non riuscivano a incendiare le navi greche, ma al calar della notte si ritirarono. Dopo aver sepolto i loro morti, i greci elessero il grande Aiace perché sfidasse Memnone. Il mattino seguente il duello era già iniziato, allorché Teti andò in cerca di Achille, che non si trovava nell'accampamento, e gli annunciò la morte di Antiloco. Achille tornò rapidamente indietro, assetato di vendette, mentre Zeus, con una bilancia in mano, pesava il destino del greco e quello di Memnone, l'eroe scostò bruscamente il grande Aiace per combattere invece sua. Il piatto che conteneva il fato di Memnone si abbassò. Achille infatti vibrò un colpo mortale e poco dopo la nera testa dell'Etiope e la sua lucente armatura coronavano il fiammeggiante rogo funebre di Antiloco. Altri tuttavia dicono che Memnone perì in un'imboscata tesagli dai Tessali e che gli Etiopi, bruciato il corpo del loro capo, ne portarono le ceneri a Titono. Tali ceneri sono ora sepolte su una collina sovrastante la foce del fiume Esepo, dove un villaggio prese il nome dell'eroe. Eos, che è descritta come madre di Memnone, supplicò Zeus di concedergli immortalità e onore. Uno stormo di galline faraone, chiamate Memnonidi, nacque allora dai tizzoni del rogo funebre e, alzatisi in volo, gli uccelli girarono tre volte intorno. Al quarto giro si divisero in due stormi, combatterono tra loro con becchi e artigli e, infine, ricaddero sulle ceneri di Memnone come offerte funebri. Le Memnonidi ancora volano e si azzuffano e cadono sulla tomba dell'eroe quando il sole ha percorso tutti i segni dello zodiaco. Secondo un'altra versione, codeste Memnonidi erano le compagne di Memnone. Esse lo piansero con tanto strazio che gli dei, impietositi, le trasformarono in uccelli. Ogni anno ritornano sulla tomba di Memnone, gemono e si lacerano il petto e alcune di loro cadono al suolo esanimi. Gli abitanti dell'Ellesponto dicono che le Memnonidi, quando si recano alla tomba di Memnone presso l'Ellesponto, si servono delle loro ali per spruzzare sul tumulo l'acqua del fiume Esepo e che Eos ancora oggi piange il figlio ogni mattina con lacrime di rugiada. Polignoto ha dipinto Memnone mentre affronta il suo rivale Sarpedone con indosso un mantello ricamato a uccelli. Si dice che gli dei considerino come giorno di lutto l'anniversario della sua morte. Altri ancora credono che le ossa di Memnone siano state trasportate a Pafo, nell'isola di Cipro, e di lì a Rodi, dove sua sorella Imera o Emera venne a riprenderle. I fenici che si erano ribellati a Falanto le consentirono di ripartire con quei miseri resti purché non avanzasse pretese sul tesoro rubato. Emera acconsentì e portò l'urna in Fenicia e la seppellì a Pagliocchide. Poi nessuno seppe più nulla di lei. Altri infine dicono che la tomba di Memnone si trova presso Palto, in Siria, sulle rive del fiume Badas. La sua spada di bronzo è appesa nel tempio di Asclepio a Nicomedia e Tebe in Egitto è famosa per una colossale statua nera, una figura seduta in trono, che ogni mattina all'alba emette un suono simile a quello di una corda di lira. Tutte le genti di lingua greca la chiamano la statua di Memnone, ma gli egiziani no. Achille inseguì i troiani in fuga fino alle mura della città, ma anche il suo destino era ormai segnato. Poseidone e Apollo, decisi a vendicare la morte di Cicno e di Troilo e a punire certe insolenti vanterie di Achille, ne complottarono assieme la morte. Velato da una nube ritto presso le porte scee, Apollo identificò Paride nel folto della mischia e lo aiutò a tendere l'arco, guidando poi la freccia fatale. La freccia colpì l'unico punto vulnerabile del corpo di Achille, il tallone destro, ed egli morì tra gli spasimi. Ma altri dicono che la freccia fu scoccata da Apollo stesso, che aveva assunto le sembianze di Paride, e questa fu la versione accettata da Neottolemo, figlio di Achille. Una violenta battaglia si accese attorno al cadavere. Il grande Aiace abbatté Glauco, lo spogliò dell'armatura, nonostante la pioggia di frecce si aprì un varco tra i nemici, trascinando il corpo di Achille, mentre Odisseo lo copriva alle spalle. Una tempesta mandata da Zeus pose fine alla lotta. Secondo un'altra versione, Achille fu vittima di un complotto. Priamo gli aveva offerto Polissena in sposa a condizione che i greci levassero l'assedio da Troia, ma Polissena, che non perdonava ad Achille di aver ucciso suo fratello Troilo, lo indusse a rivelarle il segreto del tallone vulnerabile. Non c'è infatti segreto che una donna non riesca a strappare a un uomo come prova di amore. Dietro richiesta di Polissena, dunque, Achille si recò disarmato e a piedi nudi al tempio di Apollo Timbreo per ratificare il patto con un sacrificio. E allora, mentre Deifobo se lo stringeva al petto in un finto abbraccio amichevole, Paride, nascosto dietro la statua del dio, lo colpì al tallone con una freccia avvelenata o, secondo altri, con la spada. Prima di morire, tuttavia, Achille afferrò un tizzone ardente dall'altare e fece strage dei troiani e dei servi riuniti nel tempio. Frattanto Odisseo, Aiace e Diomede, che sospettavano Achille di voler tradire i compagni, l'avevano seguito al tempio. Paride e Deifobo, uscendo dalla porta, passarono di corsa dinanzi a loro. I greci entrarono e Achille, spirando tra le loro braccia, li supplicò, non appena Troia fosse caduta, di sacrificare Polissena sulla sua tomba. Aiace si caricò il cadavere sulle spalle e lo portò fuori del tempio. I troiani cercarono di riprenderselo, ma i greci li respinsero e raggiunsero le navi. Altri dicono invece che i troiani ebbero la meglio e non consegnarono il corpo di Achille ai greci finché questi non ebbero restituito l'oro del riscatto pagato da Priamo per Ettore. I greci rimasero atterriti per la perdita di Achille. Posidone tuttavia promise a Teti di donare ad Achille un'isola nel Mar Nero, dove le tribù costiere gli avrebbero offerto sacrifici per l'eternità. Un gruppo di Nereidi giunse a Troia per piangere con Teti. Si disposero in cerchio attorno al morto mentre le nove muse intonavano il lamento che durò 17 giorni e 17 notti. Ma benché Agamennone e gli altri capi versassero molte lacrime, nessuno dei soldati rimpianse molto un traditore così notorio. Al 18° giorno il corpo di Achille fu bruciato sul rogo e le sue ceneri, mescolate a quelle di Patroclo, vennero riposte in un'urna d'oro fabbricata da Efesto, dono di nozze di Dioniso a Teti. Quest'urna fu sepolta sul promontorio Sigeo che domina l'Ellesponto, e i greci vi innalzarono sopra un tumulo a cono. In un vicino villaggio chiamato Achilleo sorge un santuario dedicato ad Achille, e vi si trova la sua statua adorna di un orecchino da donna. Mentre gli Achei celebravano i giochi funebri, Eumelo vinse la corsa dei cocchi, Diomede la corsa a piedi, Aiace il lancio del disco e Teucro la gara di tiro all'arco, Teti si portò via l'anima di Achille e la guidò all'Euca, un'isola di circa 20 stadi di circonferenza, boscosa e ricca di selvaggina, che si trova di fronte alle foci del Danubio ed è ora sacra all'eroe. Un giorno, quando certo Leonimo di Crotone, che aveva riportato gravi ferite al petto mentre combatteva contro i Locresi e i Pizzefiri, si recò a Delfi per chiedere come doveva curarsi, la Pizia gli disse «salpa per l'Euca». Colà l'ombra del piccolo Aiace, invocata in battaglia dai tuoi nemici, ti apparirà e farà rimarginare la tua ferita. Leonimo ritornò alcuni mesi dopo, completamente guarito, e disse di aver visto Achille, Patroclo, Antiloco, il grande Aiace e infine il piccolo Aiace che lo aveva guarito. Elena, ora sposa di Achille, gli aveva detto: «Ti prego, Leonimo, vai a Imera e di al calunniatore di Elena che la sua cecità è dovuta al mio corruccio». I naviganti che dal Bosforo si dirigono a nord, verso Olbia, spesso odono la voce di Achille che sulle onde canta versi di Omero, e quel suono è accompagnato da zoccolio di cavalli, grida di guerrieri e clangore di armi. La prima volta che Achille si giacque con Elena fu in sogno, un sogno accuratamente predisposto dalla madre di lui, Teti, e quell'esperienza gli diede tale godimento che Achille chiese a Elena di mostrarglisi non più nel sonno, ma nella vita reale, dall'alto delle mura di Troia. Così essa fece e Achille si innamorò perdutamente. Poiché Achille fu il suo quinto marito, in Creta lo chiamarono Pento, ossia Quinto. Teseo, Menelao, Paride e infine Deifobo erano stati i suoi predecessori. Ma altri ritengono che Achille sia rimasto nell'Ade e che laggiù si lagni amaramente della propria sorte mentre cammina sul prato degli Asfodeli. E altri ancora credono che egli abbia sposato Medea e viva regalmente nei campi Elisi o nell'isola dei Beati. Per ordine di un oracolo fu innalzato un cenotafio in onore di Achille nell'antica palestra di Olimpia. Colà, all'inizio dei giochi, mentre tramonta il sole, le donne Elee celebrano riti funebri. I Tessali, dietro consiglio dell'oracolo di Dodona, tributano ad Achille sacrifici annuali. E sulla strada che da Sparta corre verso nord vi è un santuario eretto da Prassaco, pronipote di Achille. Tale santuario è inaccessibile a tutti, fuorché ai fanciulli che debbono combattere in un vicino bosco di platani e che vi celebrano sacrifici prima della prova d'armi. Pentesilea fu una delle amazzoni sconfitte da Teseo e da Eracle, vale a dire una delle sacerdotesse guerriere di Atena sconfitte dagli eolici invasori della Grecia. Secondo la leggenda, la sua morte avviene a Troia, forse perché si diceva che la confederazione di Priamo comprendesse tutte le tribù dell'Asia Minore. Pentesilea non è citata nell'Iliade, ma l'oltraggio fatto da Achille al suo cadavere è così caratteristicamente omerico e l'episodio è citato in tanti testi classici che i versi che la riguardavano furono forse soppressi dai revisori di Pisistrato. Ditti Cretese rende ancora più moderna la leggenda. Dice che Pentesilea giunse a Troia alla testa di un gran esercito e, trovato Ettore già cadavere, sarebbe ripartita se Paride non l'avesse allettata con doni d'oro e d'argento. Achille trafisse Pentesilea con la lancia fin dal loro primo scontro e, afferratala per i capelli, la tirò giù di sella. Mentre essa giaceva a terra morente, i soldati greci gridarono: «Getta in pasto ai cani quella virago affinché sia punita per aver forzato la natura femminile!» Benché Achille volesse tributarle decorose esequie, Diomede trascinò via il corpo e lo gettò nello scamandro. Le vecchie nutrici, nella mitologia greca, rappresentavano di solito la dea come vegliarda e cleta invocata. La nutrice di Pentesilea non fa eccezione alla regola. Cissia, Edera, pare fosse l'antico appellativo delle dee dai nomi vari che presiedevano alle feste dell'Edera e della vite in Grecia, in Tracia, nell'Asia Minore e in Siria. I Cissi di Memnone, tuttavia, sono una variante dei Susi, uomini Giglio, così chiamati in onore della dea del Giglio Susanna o Astarte. Probabilmente Priamo non invocò l'aiuto degli Assiri, bensì degli Ittiti, che potevano benissimo mandargli rinforzi via terra e via mare dalla Siria. Memnone, risoluto, un appellativo molto comune tra i re greci e intensificato in Agamennone molto risoluto, è stato qui confuso con Mnemone, un appellativo di Artaserse l'Assiro, e con Amenofi, il faraone, in onore del quale fu eretta la famosa statua nera a Tebe. I primi raggi del sole, riscaldando la pietra cava, facevano sì che l'aria all'interno salisse sibilando per la stretta gola. Achille, così come ci si presenta dalla nascita alla morte, è mitologicamente identificabile con l'antico re sacro pelasgico, destinato a diventare un eroe oracolare senza labbra. Il suo mitico avversario ebbe vari nomi, come Ettore, Paride e Apollo. In questo caso è Memnone, figlio di Cissia. Il duello di Achille con Memnone, ciascuno aiutato dalla propria madre, fu raffigurato sul cofano di Cipselo e sul trono di Apollo ad Amicle, e figura inoltre in un grande dipinto, opera di Licio, che gli abitanti di Apollonia dedicarono a Olimpia. I due personaggi rappresentano il re e il successore. Achille, figlio della dea del mare, chiaro spirito dell'anno che inizia, Memnone, figlio della dea dell'Edera, oscuro spirito dell'anno che finisce, cui è sacra la vite dorata. Al solstizio d'estate e al solstizio d'inverno, alternativamente, uno di loro uccide l'altro. Il re soccombe sempre in seguito a una ferita al tallone, il successore viene decapitato con un colpo di spada. In origine Achille, non ancora contaminato dallo scandaloso comportamento dei capitani dorici e achei che ne usurparono il nome, era onorato in molte regioni come eroe. E la leggenda non omerica del tradimento di Polissena, che strappò ad Achille il segreto del tallone vulnerabile, pone questo eroe accanto a Iulao, a Cuculain, a Sansone e ad altri eroi dell'età del bronzo di ottima reputazione. Può darsi dunque che la sua lotta con Pentesilea fosse simile alla lotta di suo padre Peleo con Teti. Il destinatario del messaggio che Elena mandò da Leuca, ora un'isola spoglia dove sorge un penitenziario rumeno, era il poeta Stesicoro. Poiché Memnone giunse da Oriente per portare rinforzi a Priamo, fu detto figlio di Eos, Alba, e poiché bisognava pur dargli un padre, la scelta cadde logicamente su Titono. Una battaglia che si svolgeva al solstizio d'inverno tra fanciulle travestite da uccello e che è citata da Ovidio, si ricollega senz'altro alla leggenda delle Memnonidi, mentre troppo fantasiosa pare la spiegazione che fa di questi uccelli una personificazione delle scintille schizzanti dal rogo funebre. La battaglia, in origine, doveva determinare l'elezione della grande sacerdotessa, secondo l'usanza libica. Achille, come re sacro di Olimpia, veniva pianto durante il solstizio d'estate, quando si tenevano in suo onore i giochi funebri a Olimpia. Il suo successore, chiamato localmente Crono, veniva pianto dopo il solstizio d'inverno. Nelle isole britanniche queste festività cadevano rispettivamente il 1 d'agosto e il giorno di Santo Stefano, ma benché il cadavere del Louis dalla cresta dorata, l'uccello di Crono, sia ancora portato in processione nei distretti rurali il giorno di Santo Stefano, le Memnonidi britanniche precipitano sospirando e singhiozzando soltanto per il pettirosso e non per la sua vittima, il Louis, cioè per il successore e non per il re sacro. Il santuario eroico di Achille in Creta fu probabilmente costruito da immigrati pelasgi, ma il platano è l'albero cretese. Poiché le foglie del platano rappresentavano la verde mano di Rea, Achille fu forse chiamato Pento, Pemptos, quinto, per identificarlo con Acesida, il quinto dei dattili della dea, e cioè il mignolo oracolare, così come Eracle fu identificato con il primo dattilo, il pollice virile. Il tralcio dorato di Priamo, ceduto a Titono come compenso per i rinforzi guidati da Memnone, pare fosse quello donato a Troo da Zeus come compenso del ratto di Ganimede.